prendere in mano con amici il nostro libro Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana, e stiamo spiegando il capitolo sesto, dove appunto stiamo analizzando un'espressione di Gesù che è certamente in un certo senso allarmante, perché viene chiamato Satana il principe di questo mondo. Come vedete, Gesù non minimizza sul demonio, lo chiama mentitore, padre della menzogna, omicida fin dal principio, quindi non lo copre, manifesta la sua malvagità. E non copre neanche la potenza del demonio, Gesù. Lo chiama il principe di questo mondo. Noi abbiamo detto già che bisogna evitare due pericoli, quello di sottovalutare la potenza del demonio, che è grande, e quella di sopravvalutare la potenza del demonio, perché comunque egli è soggetto a Dio. E non può piegare la volontà umana, se essa non aderisce spontaneamente. Noi abbiamo visto che il demonio ha una specie di diritto di conquista sulle anime, su questo mondo e sugli uomini che nascono, a causa del peccato originale. E infatti il bambino che nasce col peccato originale non solo non ha la grazia di Dio, non solo non è meritevole della vita eterna, ma ha in sé il veleno che noi chiamiamo concupiscenza, cioè la tendenza al male, e anche dopo che viene rivestito dalla grazia santificante dovrà affrontare il combattimento spirituale con l'aiuto della grazia per vincere questa ferita originaria che viene trasmessa di padre in figlio. Ma il demonio è forte, principe di questo mondo, secondo l'espressione di Gesù, non soltanto in virtù del peccato originale che ha coinvolto tutto il genere umano e che segna tutti coloro che nascono, ma il demonio è forte perché a partire dalla catastrofe originaria la storia del mondo ha visto gli uomini peccare volontariamente, quindi aumentare il potere del maligno sul genere umano. Tant'è vero che il libro del Genesi, al capitolo sesto, ci dice che Dio si è pentito d'aver creato l'uomo, tanto era il male, la malvagità degli uomini era così grande sulla terra, e ogni pensiero da loro concepito non era altro che male, per cui Dio decide di punire il mondo, di distruggere il mondo, se non che poi trova il giusto Mosè. E quindi il demonio è diventato principe di questo mondo non soltanto per la grande vittoria ottenuta all'inizio della storia dell'umanità, ma grazie a tutti quei peccati che l'umanità ha fatto nel corso della sua storia. Rimane aperto comunque, cari amici, un problema che è questo, cioè fino a che punto era principe di questo mondo il demonio, non al punto da privare l'uomo del suo libero arbitrio. Questo fu anche il vero confronto fra la Chiesa Cattolica e il Luteranesimo all'inizio. Lutero riteneva che dopo il peccato originale il libero arbitrio diventasse servo arbitrio, cioè l'uomo non fosse più capace di dire di no al male. La Chiesa Cattolica, con il Concilio di Trento, invece stabilì che il libero arbitrio era ferito e che comunque l'uomo poteva ancora opporsi al male. Resta aperto il problema teologico, cari amici, della potenza del demonio dopo la vittoria di Cristo, perché vi ho detto che il problema della potenza del male va sempre visto alla luce della vittoria di Cristo. Ma vedete, c'è un altro problema adesso, e cioè c'è un altro fatto che ci sconcerta, è la potenza del maligno anche dopo la vittoria di Cristo. Tutti i testi biblici che ci testimoniano la presenza del male prima della venuta di Cristo noi li comprendiamo molto bene, cioè l'uomo senza peccato originale e senza la grazia di Cristo era più esposto al male di noi. Ora invece, per quale motivo dopo la vittoria di Cristo e dopo il dono della grazia il male è ugualmente così grande nel mondo? Forse che la potenza di Cristo non è superiore alla capacità di seduzione del maligno? E qui, cari amici, allora bisogna mettere bene in luce la differenza che c'è fra prima e dopo Cristo. Cioè che dopo Cristo gli uomini, grazie alla vittoria di Cristo sul maligno, gli uomini hanno il potere di dire no al maligno, un potere ben superiore a quello che avevano prima, perché sono sostenuti dalla grazia di Cristo. Quindi se prima della venuta di Cristo il potere del maligno era dovuto soprattutto alla debolezza umana, oggi è dovuto soprattutto alla malvagità umana. Cioè voglio dire, oggi il maligno ha quel potere che noi vogliamo dargli. Perché se noi non volessimo darlo abbiamo la capacità molto superiore a quella che c'era prima della venuta di Cristo di combattere il male. Cioè la venuta di Cristo, cari amici, non ci ha tolto il combattimento spirituale, però ci ha dato delle armi formidabili in mano. L'arma della preghiera e della grazia. Per cui noi abbiamo le armi oggi, l'arma della verità, che è la parola di Dio. Sarebbe bellissimo vedere tutte le immagini paoline, no? Delle armi del combattimento spirituale, ma la prima arma è l'arma della verità, per smascherare la menzogna. Quindi c'è l'arma della parola di Dio, c'è l'arma dei sacramenti e della grazia che i sacramenti danno, c'è questa colonna della verità che è la Chiesa. Quindi oggi noi disponiamo veramente delle armi e degli equipaggi, e se vogliamo, e di tutto ciò che è necessario per trionfare sul maligno, ma molti uomini non lo fanno. Non bisogna, cari amici, io non sono di quelli che dicono che basterebbe guardare la storia di questo secolo per dire che il male è forte, cioè sarebbe da stupidi chiudere gli occhi davanti alla potenza del male. È una potenza talmente grande che uno si chiede, ma allora Cristo, la vittoria di Cristo a cosa è servita? Cari amici, guardate che se è vero che il male oggi è grande, è anche vero che prima di Cristo non c'era tutto il bene che c'è adesso. Quindi stiamo attenti. Da una parte non si può non negare che il male sia grande oggi sulla terra. Non si può negarlo. Anzi, forse è superiore a quello dei tempi passati. Perché quello che è accaduto in questo secolo di ferocia forse non è mai accaduto nella storia dell'umanità. La negazione di Dio che c'è stata in questo secolo, forse non c'è mai stata nella storia dell'umanità. Però si potrebbe dire anche che la santità che c'è stata in questo secolo, i martiri che ci sono stati in questo secolo, non c'è mai stata nella storia dell'umanità. Quindi è certamente vero che anche dopo Cristo il male ha una sua potenza di suggestione, testimoniata chiaramente dall'Apocalisse. L'Apocalisse mostra la grande battaglia che si è scatenata fra la prima e la seconda venuta di Cristo, cioè quest'ultima tappa della storia umana, che è quella che stiamo vivendo noi, che va dalla prima alla seconda venuta di Cristo, una tappa di grandi battaglie. Il demonio è un drago infuriato che dopo aver perseguitato Cristo cerca di perseguitare la Chiesa. Sappiamo che questa battaglia avrà il suo culmine alla fine dei tempi, quando la grande impostura dilagherà sul mondo e sembrerà che il demonio stia per vincere su Cristo. Catechismo della Chiesa Cattolica numero 675, che paragona la storia della Chiesa alla vita di Cristo, e come la vita di Cristo finisce apparentemente con la sconfitta del Calvario, ma poi trionfa con la resurrezione, così la storia della Chiesa vivrà alla fine quello che ha vissuto Cristo, e cioè l'apparente annientamento, crocifissione e morte, ma l'ultima parola sarà del Cristo glorioso che viene, della resurrezione della Chiesa. Quindi la potenza di Satana è enorme, ci dice l'Apocalisse, anche dopo la vittoria di Cristo sul demonio, ma nel medesimo tempo anche la potenza del bene è grandissima. Perché non c'è mai stata tanta santità come c'è stata in questi 2000 anni. Come diceva Romano Guardini, i due eserciti sono armati fino ai denti e schierati. Per cui, cari amici, anche dopo la vittoria di Cristo e fino alla sua seconda venuta, il male ha una potenza straordinaria. E questo lo constatiamo, direi, anche nella nostra vita. Noi abbiamo parlato di questo secolo come uno dei secoli più tremendi dal punto di vista del male fatto, ma quel male che non si vede, ma che è frutto di tutti i mali, cioè la negazione di Dio, la ribellione a Dio. Questo è il secolo della ribellione a Dio in massa, degli ateismi di Stato, cosa mai avvenuta nella storia dell'umanità. Ma è anche il secolo dei grandi martiri, dei grandi testimoni. Quindi il tempo che va fra la prima e la seconda venuta di Cristo vede il drago più che mai infuriato, perché sa che sa che verrà presto il momento in cui verrà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e verrà chiuso per tutti i secoli dei secoli. Ecco perché è più infuriato. Ma ciò nonostante, Dio ci ha messo in mano le armi per vincerlo. Quindi, se il drago è più infuriato che mai, dopo la venuta di Cristo, e quindi il combattimento spirituale direi che è un obbligo della vita cristiana, nel medesimo tempo le armi della luce che abbiamo a disposizione sono straordinarie. Basti quella affermazione della regina della pace: affrontate e vincete Satana con il rosario in mano. Cari amici, guardiamo la nostra vita, guardiamo la tentazione, poi vedremo, noi dedicheremo molto spazio alla tentazione in questo libro. Quando siamo tentati, noi ci rendiamo conto della potenza di Satana, come Satana ci turba, ci porta in bufere tremende, e quindi la sua potenza non è da poco. Quante volte ci ha fatti tremare come foglie al vento, quante volte la sua furia si è abbattuta su di noi con la furia di un uragano. Parlo della nostra vita personale, cari amici, però quante volte, se ci siamo serviti delle armi della luce, in particolare della fede e della preghiera, e siamo rimasti fermi come rocce, e Satana non ha potuto nulla contro di noi. Quindi è aumentata certamente, dopo che Cristo l'ha colpito a morte, la sua ferocia è aumentata, ma abbiamo in mano tutti le armi sufficienti per vincerlo. E adesso noi vorrei proseguire in questo capitolo in cui ho mostrato, cari amici, la potenza del maligno a partire dal peccato originale fino alla venuta di Cristo, e come questa potenza sia da non sottovalutare anche dopo la vittoria di Cristo. Anzi, il maligno è ancora più pericoloso, perché è ferito, e come ogni bestia ferita è ancora più feroce, ma nel medesimo tempo, oggi, cioè in quest'ultima tappa della storia della salvezza, abbiamo in mano le armi per vincere questa battaglia. Adesso mi preme, proprio perché il pericolo, perché se c'è da una parte il pericolo di sottovalutare, oggi è un pericolo molto diffuso quello di sottovalutare la capacità di seduzione del maligno, un pericolo molto diffuso, ed è anche per questo che molte persone sprovvedute poi cadono facilmente nelle sue reti. Però c'è anche il pericolo di sopravvalutarla, e specialmente in certi gruppi, a mio parere, certi gruppi religiosi, c'è un po' il pericolo di sopravvalutare la potenza del maligno, e qualche volta anche noi personalmente la sopravvalutiamo. Tutte le volte che, essendo caduti nella tentazione, diciamo: ma la tentazione era superiore alle mie forze. E questo non è vero, cari amici, perché Dio non permette che tu sia tentato al di sopra delle tue forze. Se sei caduto è perché non hai combattuto con fermissima volontà. Allora mi pare molto opportuno adesso, in questo terzo paragrafo e quarto paragrafo del capitolo sesto, in cui descriviamo la potenza di Satana, mettere due paletti ben precisi che pongano limite alla sua potenza. Primo paletto, che comunque Satana rimane una creatura soggetta a Dio, e quindi Dio governa la tentazione. E quindi Satana non può nulla che Dio non voglia. Se Dio non vuole o non permette, Satana non può nulla. Non c'è niente da fare, cari amici. Quindi, punto primo, Satana è soggetto a Dio. Punto secondo, per quanto sia grande la potenza di Satana, deve sempre ottenere il consenso dell'uomo per fare il male, diversamente non ce la fa. Ora, il punto secondo che vogliamo ribadire è questo, che l'uomo rimane libero. Ecco i due punti per tutti coloro, specialmente certi gruppi, che sono un po' troppo, gruppi anche religiosi, che tendono a sopravvalutare la potenza di Satana, quasi che Satana sia più forte di Dio, e comunque anche per noi stessi, tutte le volte che ci scusiamo dicendo che la tentazione è troppo forte, dobbiamo mettere in chiaro due punti fermissimi di fede, e cioè, punto primo, che Satana è soggetto a Dio, punto secondo, che l'uomo rimane libero. Vediamo allora il primo punto, che Satana è soggetto a Dio, che è il mio libro, siamo a pagina 42. A volte, osservando le devastazioni dell'azione demoniaca nei confronti delle persone e della società, viene spontaneo gridare con il salmista: Signore, fino a quando? Lasciano infatti stupiti gli innegabili successi del maligno nel mondo, soprattutto quelli che consegue dopo la redenzione. A volte si è tentati di scoraggiamento, vedendo il male trionfare sul bene. Questo è vero soprattutto per il nostro tempo, che sta sperimentando, sia pure silenziosamente, una delle più gravi apostasie che la storia cristiana ricordi. Cioè, la gente nei paesi più sviluppati, Europa, Stati Uniti, specialmente i giovani, si stanno allontanando in massa dalla fede. E cioè, sono i giovani più, quelli che più di tutti vengono sedotti dalla falsa visione della vita che presenta loro il maligno, cioè una vita senza Dio e senza morale. Anche per quanto riguarda il futuro, le prospettive non sono rosee, perché la fase finale della storia non si concluderà con il trionfo della Chiesa, ma al contrario con la sua più grande persecuzione e col tentativo di annientamento da parte delle forze del male. Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 677. Quindi uno si chiede: come mai il maligno ha così grandi successi nel mondo? Non vi è dubbio, cari amici, che la potenza del demonio sia grande almeno quanto il suo odio. Tuttavia essa, cioè questa potenza del demonio, dipende in gran parte dagli uomini, i quali la sostengono col loro consenso al male e al peccato. Cioè, la potenza che ha Satana dopo la venuta di Cristo è quella potenza che non che lui ha, ma che noi gli diamo, col nostro consenso al male e al peccato. La forza di Satana è alimentata dalla nostra libera volontà, e questo è certo l'aspetto più doloroso del problema, perché molti uomini preferiscono il diavolo a Dio. È un mistero tenebroso di stoltezza e di seduzione. Il grande falsario riesce spesso a farsi preferire a Dio, e questo spiega molto del suo potere sul mondo. È veramente un mistero, cari amici, come riesca a trascinare così tanta gente sulla via del male. E naturalmente questo spiega questa adesione che la gente gli dà, spiega la forza che lui ha nel mondo d'oggi. Tuttavia, Dio, attenzione cari amici, questa è una domanda che molti di voi fanno, fin dal principio avrebbe potuto relegare Satana all'inferno senza permettere che agisse sulla terra. Se Satana ha il potere di sedurre, di tentare, di ostacolare, di perseguitare e di muovere guerra, questo dipende dalla divina permissione. Il drago però può agire solo con la forza e negli spazi, nei tempi e nei modi permessi da Dio. Ecco dunque, cari amici, un limite chiarissimo posto alla potenza di Satana. Il primo limite è dato dal nostro consenso, cioè se noi non acconsentissimo, Satana sarebbe disoccupato in questo mondo. Tuttavia anche nella sua opera di seduzione, egli può muoversi negli spazi, nei tempi, nei modi e con la forza permessa da Dio. Egli è una creatura e se Dio non la sostenesse nell'essere, precipiterebbe nel nulla. Tuttavia, negli ambiti della divina permissione, cioè nell'ambito che Dio gli concede, agisce senza sosta, sfruttando ogni situazione per intralciare i piani di Dio e per costruire il suo regno di morte da esibire per eternità come sfida al Creatore. Quindi lui Satana, può agire solo negli spazi, nei tempi e con la forza concessa da Dio, ma questi lui li sfrutta al massimo per costruirsi il suo regno di morte. E ha dei successi. Diceva il Santo Padre che non possiamo sapere noi se delle persone sono all'inferno e quante sono e chi sono, salvo che Dio non ce lo riveli. Ma la Madonna Fatima ce l'ha rivelato. Ha detto che molte anime vanno all'inferno per quanto riguarda questo tempo, questo secolo in cui gli uomini hanno abbandonato Dio. E chiedeva appunto la preghiera e i sacrifici, e ha inserito anche la famosa preghiera all'angelo, vi ricordate l'angelo della pace? Ai tre pastorelli ha inserito questa preghiera, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Dunque, non c'è dubbio che Satana abbia dei successi, cari amici. Allora noi ci chiediamo, i successi di Satana costituiscono un insuccesso per Dio? Si tratta di un interrogativo a cui è difficile rispondere, almeno qui sulla terra. Sarebbe come chiederci se l'inferno rappresenta una macchia nel disegno divino di misericordia. Certamente Dio soffre per le anime che si perdono. La sofferenza di Dio è stata stupendamente rivelata dalle due rivelazioni riguardanti i due sacri cuori, quello di Gesù incoronato di spine e quello di Maria trafitto dalla spada. Quindi, certamente Dio soffre per le anime che si perdono e per le quali il Figlio incarnato ha patito fino alla morte al fine di portare alla salvezza. Però anche loro, queste anime che hanno detto no a Dio, questi demoni, a loro modo, rendono testimonianza all'infinita sapienza del Creatore che ha voluto dotare le sue creature del dono immenso della libertà. Per quanto dunque sia impressionante l'attività nefasta che il maligno è in grado di esercitare fino alla fine dei tempi, tuttavia la sua potenza non è infinita. Egli non è che una creatura, potente per il fatto di essere puro spirito. Sto citando il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 395, è una citazione molto importante, che mostra la potenza e i limiti del maligno. Dunque, cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica? Che per quanto appunto, vi dicevo io, sia impressionante la sua attività nefasta, che il maligno è in grado di esercitare fino alla fine dei tempi. Tuttavia, e qui cito il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 395, tuttavia la sua potenza non è infinita. Egli, dice il Catechismo, non è che una creatura potente per il fatto di essere puro spirito, ma pur sempre una creatura, e non può impedire la edificazione del regno di Dio, dice il Catechismo. E poi continua dicendo: sebbene Satana agisca nel mondo per odio contro Dio e contro il regno di Gesù Cristo, sebbene la sua azione causi gravi danni, dice il Catechismo, di natura spirituale e indirettamente anche di natura fisica, per ogni uomo li causa questi danni e per la società intera, tuttavia, dice il Catechismo, questa azione è permessa dalla Divina Provvidenza, la quale guida la storia dell'uomo e del mondo con forza e dolcezza. Il Catechismo conclude con questa bellissima espressione, siamo al numero 395 del Catechismo della Chiesa Cattolica, qui cita anche Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28, dice appunto il Catechismo, concludendo questo tema della potenza del maligno: la permissione divina dell'attività diabolica è un grande mistero. Ma noi sappiamo, e qui ci dà Paolo, che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi, cari amici, mi pare di aver offerto una visione estremamente equilibrata della potenza del maligno, ma anche dei limiti di questa potenza, dicendo che Satana è comunque soggetto a Dio, che l'uomo rimane libero. Vi dicevo che il Catechismo mette in evidenza che la potenza di Satana non è infinita. Egli non è che una creatura, potente per il fatto di essere puro spirito, ma pur sempre una creatura, non può impedire l'edificazione del regno di Dio. Sebbene Satana agisca nel mondo per odio contro Dio e il suo regno in Gesù Cristo, sebbene la sua azione causi così gravi danni, di natura spirituale e indirettamente anche di natura fisica, per ogni uomo e per la società, questa azione però è permessa dalla Divina Provvidenza, la quale guida la storia dell'uomo e del mondo con forza e dolcezza. La permissione divina dell'attività diabolica, dice il Catechismo, è un grande mistero. Ma noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E io avrei tanto piacere, cari amici, che anche i miei colleghi sacerdoti tenessero conto di questi insegnamenti della Chiesa, insomma. Qui chiaramente il Catechismo della Chiesa Cattolica dice cose stupende sulla potenza del maligno, sui limiti di questa potenza, su questo mistero del male, sulle prospettive finali, e credo che tacere su questi argomenti, ignorarli, oscurarli col silenziatore oppure negare la presenza del maligno sia andare contro direttamente l'insegnamento della Chiesa. Noi, cari amici, continueremo ancora nel prossimo appuntamento a mettere in evidenza i limiti della potenza del maligno. Oggi abbiamo detto che Satana è comunque soggetto a Dio.